Storielle. Storiacce. Di Roberta Giordano. Va detto subito dall'inizio, la storia del personaggio di oggi è davvero una storia eccezionale, una storia straordinaria. Diciamo che è un po' inflazionato questo aggettivo, straordinario, no? Si enfatizza spesso un po' troppo, tutti hanno delle cose straordinarie, fanno delle cose straordinarie. In questo caso invece servirebbero delle parole nuove, un po' più amplificanti, anzi. Però per il momento, insomma, possediamo dal vocabolario questo termine, questo aggettivo, e lo usiamo. Straordinario, perché sentirete davvero come la forza di volontà e qualcosa che c'è dentro certe persone, che nella maggior parte non c'è, non esiste, riesce a far fare cose grandiose. Però prima di tutto l'identikit dell'ospite che sto per salutare attraverso tre aggettivi. Ospite, questo identikit come potrebbe essere? Determinato, testardo e generoso. Testardo e determinato, quello, no? Generoso, poi scopriremo, ma credo proprio di sì, insomma, visto il personaggio a tutto tondo che è Fabrizio Macchi. Benvenuto qui a Storielle, Fabrizio, che è campione di ciclismo, un campione di ciclismo veramente particolare, perché dicevamo la vita straordinaria di Fabrizio Macchi. Fabrizio è un campione di ciclismo al quale sono successe delle cose che potevano completamente ostacolare la sua vita, diciamo, nella prima adolescenza, che però lui è riuscito a superare, dicevo, con questa forza d'animo, con questo coraggio, con qualche dote che non si riesce mai a spiegare fino in fondo. Quindi lo diciamo subito, Fabrizio, tu a 13 anni hai vissuto un momento difficilissimo, ti hanno diagnosticato un tumore al ginocchio sinistro, no? Sì, un osteosarcoma, che a quell'epoca era un tumore molto, molto pericoloso, aveva una mortalità superiore al 90%, e quindi figurati. È chiaro che essere qui a raccontare queste cose, c'è anche un grandissimo tocco di fortuna da questo punto di vista, quindi, ed è per quello che io spesso e volentieri dico che mi ritengo una persona estremamente fortunata, che ho ottenuto quasi tutto quello che volevo dalla vita, quindi da quel punto di vista mi sento veramente un, tra virgolette, miracolato. E bisogna dire, Fabrizio, che tu probabilmente la tua storia, per quello che rappresenti, l'avrai raccontata tante tante volte, no? Alla fine magari quasi ti annoierai, però è quasi un dovere da parte tua, o no? Lo riconosci questo? Ma assolutamente sì, sicuramente è una storia a lieto fine, diciamo. È una storia che sicuramente può dare forza, speranza e coraggio a tantissime persone, a tantissime famiglie che trovano i loro figli con questo tipo di patologia. Possiamo spiegare anche che comunque l'osteosarcoma è una patologia che colpisce soprattutto le persone, i ragazzi, le ragazze in età adolescenziale, quindi è chiaro che questa speranza la si può dare sia ai ragazzi ma soprattutto alle famiglie, che in quel periodo hanno un ruolo fondamentale nel comunque seguire, affrontare e tenere vicino magari un figlio che in quel momento gli è stato diagnosticato una patologia molto, molto grave. Quindi tu hai fatto 3 anni di ospedale, se non sbaglio, da adolescente. Sì. Hai 13 anni, no? 3 anni di ospedale sono tantissimi per chiunque, figuriamoci per un ragazzino. 17 interventi chirurgici, un'infinità, e poi vabbè, cicli di chemioterapia che ti hanno salvato la vita, ma non il ginocchio, non la gamba sinistra, quindi. E nemmeno il polmone, il lobo inferiore del polmone destro. Quindi hai subito l'amputazione della gamba nel 1994, però poi sei diventato quello che molti definiscono il campione fenicottero che in bicicletta incanta il mondo. Ho visto spesso questa frase per definirti. Tra l'altro c'è un fenicottero come simbolo, come logo, anche sul tuo sito, no? Sì, sì, sì. Te ne sei appropriato, insomma, ti piace questa definizione? Ma sì, nel senso che mi è piaciuta dal fatto che comunque il fenicottero è un animale molto, molto elegante, che soprattutto dorme su un arto solo, e quindi, non lo so, in un periodo della mia vita mi ha fatto piacere accomunare, diciamo, un po' la mia storia, il mio modo di essere al fenicottero, e è nata questa cosa qua, insomma. Fabrizio Macchi ha avuto una carriera inimitabile come ciclista, ha vinto un sacco di medaglie d'oro, d'argento ai campionati italiani di ciclismo, d'Europa, del mondo, diverse medaglie al valore atletico, e poi hai partecipato a 3 Paralimpiadi, che sono i giochi olimpici per le persone diversamente abili, no? Quello di Atene Berlino 2004, dove hai vinto il bronzo, poi prima c'era stato Sydney e hai partecipato anche a quelle di Pechino 2008. Sei arrivato al quinto posto nell'inseguimento a Pechino. Sì, Pechino non è andata come desideravo e soprattutto come era, diciamo, pronosticato, nel senso che l'obiettivo era quello di salire sul gradino più alto nel podio, ma ho preso prima una bronchite e poi una colica renale. La Cina non mi è molto simpatica da questo punto di vista. Non si può immaginare. Però stiamo affrontando un altro quadriennio olimpico per cercare comunque, anche se 42enne, arrivare a Londra 2012 e partecipare alla quarta Paralimpiade. In realtà sarebbe un piccolo record, perché nessun ciclista, né normodotato né disabile, ha mai fatto quattro Olimpiadi. Ah sì, mai? Saresti il primo, mai. Quindi se arrivi a Londra in Italia, 2012. In Italia. E allora pedala fin lì, o no? Quindi pedala. Dicevi 42enne, perché adesso tu, Fabrizio Macchi, devi fare 39 anni tra un po'. Esatto. Sei del 1970, nato a Varese, tra le vari risultati, soddisfazioni, eccetera, parlavamo delle medaglie, ma sei anche Cavaliere della Repubblica nel 2004, hai ricevuto questa onorificenza, no? Proprio sì, per il tuo valore di campione. Un riconoscimento molto importante dato dal Presidente della Repubblica, viene dato a quegli atleti che comunque riescono a conquistare un podio olimpico, e quindi è un riconoscimento che la nazione ti dà, e credo sia una delle cose, delle soddisfazioni molto grandi, perché tu prepari un avvenimento sportivo per tantissimo tempo, centri l'obiettivo, sei tra i pochi al mondo che già partecipano alle Olimpiadi, poi se riesci a salire sul podio, credo che insomma è un riconoscimento veramente importante. Grandissime soddisfazioni, infatti. E tu hai scritto 2 anni fa, se non sbaglio, anche un'autobiografia che si intitola Più forte del male, come tu sei sempre stato, sin da ragazzino, da giovanissimo. È uscito nell'agosto del 2007. E poi, vabbè, i proventi sono andati in beneficenza, quindi c'è anche questa cosa da dire, ma lì hai voluto raccontare la tua storia un po' anche perché poi la conoscesse tuo figlio, che adesso è ancora piccolino, Thomas, no? Quanti anni ha? Thomas ha 2 anni e 4 mesi e mezzo. Nel momento in cui è nato mi sono reso conto di non aver combinato niente fino a quello. Quell'emozione che ho provato a vedere nascere lui è stata molto, molto grande. E poi ho pensato che forse, anche se lui mi ha vicino tutti i giorni, può chiedermi qualsiasi cosa, mettere nero su bianco la mia storia, la mia esperienza, magari un giorno gli poteva servire, rileggere quello che tipo di strada e che tipo di scelte ha fatto suo papà. Facendo così, penso che possa essere anche un promemoria per tante persone, sì, che magari in un momento particolare della loro vita non sanno da che parte girarsi e possono comunque vedere che cosa ha fatto un'altra persona. Non sono sicuramente dei consigli, perché credo che nessuna persona sia in grado di consigliare altre, però sono dei suggerimenti di come uno ha risolto dei problemi molto gravi, molto grossi di una vita, e li ha risolti, diciamo, in un modo molto, molto brillante, quindi magari può prendere spunto da queste cose qua, e questo è stato, diciamo, il motivo per il quale io ho deciso di scrivere la mia biografia. Storielle. Storiacce. Più forte del male, questo è il titolo della storia di vita, si potrebbe dire, di Fabrizio Macchi, un libro, un'autobiografia che è uscita 2 anni fa. È l'ospite di oggi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Dicevamo, una vita straordinaria come pochissime altre, perché lo sintetizzo: Fabrizio aveva grandi aspirazioni, grandi sogni da bambino. A 13 anni è stato diagnosticato questo tumore al ginocchio, ha fatto 3 anni di ospedale, tante cure, tante difficoltà, tanta sofferenza sicuramente. Ha perso la gamba, ma è diventato un grande campione di ciclismo. Tra l'altro, Fabrizio, tu non hai fatto soltanto ciclismo, proprio bulimico di sport e di risultati e di soddisfazioni, perché hai fatto anche dell'atletica leggera, hai vinto 3 volte la maratona di New York. Sì, ho iniziato con il canottaggio, perché quando sono uscito dall'ospedale mi serviva un qualcosa per ritornare in forma, e vicino dove abito io c'è il lago di Varese, quindi ho iniziato a fare un po' di rinforzo muscolare da canottieri. Dopodiché ho visto che questa cosa poteva funzionare e ho fatto il canottaggio come disciplina sportiva, arrivando terzo ai campionati del mondo. Poi ho deciso di cambiare, ho praticato atletica con le 3 maratone di New York, poi l'incontro con Alberto Tomba che mi ha voluto a tutti i costi portare sugli sci. Ci sono stato per 2 anni, poi a causa della morte di mio papà non sono più potuto andare a allenarmi così lontano, e quindi ho iniziato insomma questa avventura con la bicicletta, e chiaramente si è rivelata la scelta giusta, insomma il mezzo con il quale sono riuscito a esprimere tutte le mie performance. Dicevamo che sei nato nel 1970 a Varese, prima di quel momento difficile che però è stata una svolta epocale nella tua vita, prima dei 13 anni e della diagnosi così funesta, insomma, in quel momento. Che bambino sei stato, Fabrizio Macchi? Leggermente un po' di più disperato. In che senso? Nel senso che ero abbastanza dinamico, poco gestibile. E, insomma, mi piaceva tanto giocare, divertirmi e fare tante cose. E poi è successa questa cosa, ma tu hai avuto evidentemente, a parte quel qualcosa che c'è dentro di te, Fabrizio, che al di là delle false modestie, quando si è persone come te bisogna ammettere che si ha qualcosa che è difficile definire, ma che non c'è nella gran parte delle persone, che ti fa reagire così con forza, con coraggio, che ti fa andare avanti anche con entusiasmo, anche con passione. Tu non lo sai dire che cos'è questa cosa, è una cosa che hai dentro, immagino, no? Ma penso proprio di sì, è una cosa che io ho sempre avuto dentro, la voglia di mettermi in discussione ogni giorno, ogni nanosecondo, l'ho sempre avuto sin da piccolo. Nel momento in cui realizzo una cosa voglio subito farne un'altra. E probabilmente questa cosa non lo so, mi ha aiutato in moltissimi periodi della mia vita, e probabilmente il fatto che comunque avendo sconfitto una patologia così importante, così grave come il cancro, non lo so, ti fa vedere la vita con degli occhi diversi, e quindi può essere che tutto questo cocktail sia la ricetta giusta, sia un grande propulsore. Esatto. Prima citavi il tuo papà che è venuto a mancare qualche anno fa, e anche la tua famiglia sicuramente, al di là di questo quid che tu hai dentro, ti è stato di grande sostegno, ti ha dato grande forza. Sicuramente sì, loro sono state l'arma vincente di quando ero in quel periodo in ospedale. I miei genitori parlavano sempre in forma positiva, in forma futura. Incoraggiandoti, quindi, Carlo e Anna. Esattamente, no? Sì, quando ci sono due persone come i tuoi genitori che avrebbero qualsiasi cosa per te, parlano in positivo, tu non puoi far altro che prendere la vita in un modo positivo. Adesso questo ruolo hanno mia moglie e mio figlio, e credo che insomma sono una botte di ferro da questo punto di vista. Tuo figlio, che deve essere nei pressi, perché sentivo una vocetta carina poco fa, quindi se mai volesse intervenire in questa chiacchierata. Sono tornato da pochi giorni dal ritiro con la nazionale, quindi vuole stare un po' con me. Giustamente, può stare col suo papà, visto che anche lui è un grande motivo di forza. Dicevi tua moglie, che si chiama Patrizia, no? Sì. Quando vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti fine 2004. Ah, ecco, perché ti stavo facendo la prova della classica moglie o compagna che dice chissà se si ricorda quando ci siamo. No, nella fine del 2004, e poi insomma è nata una storia importante, abbiamo deciso di sposarci, e insomma poi è nato Thomas. Che è una cosa che desideravo da tantissimo tempo, insomma. E posso chiederti come vi siete conosciuti con Patrizia? Ma ci siamo conosciuti in una vacanza, poi come succedono delle cose non ti rivedi più, poi casualmente ti rivedi e insomma scopri di avere del feeling, delle affinità che possono essere importanti, e quindi abbiamo costruito questa vita insieme. Insomma. Quindi è stato uno di quegli amori magici che nascono a più riprese, non immediatamente, magari lasciano un segno a qualcosa, e poi dopo quando ci si rivede... Perché solitamente io sono un vacanziere molto, come posso dire, modello, nel senso che facendo un'attività come la faccio io, che sono via tantissimi giorni, faccio competizioni, sport 5 ore al giorno, quando vado in vacanza di solito dormo. Ecco, di ottima compagnia, insomma. No, però insomma, alla fine probabilmente... I momenti in cui eri sveglio sono serviti a qualcosa. Per me le vacanze sono vacanze veramente. Senti, ma meglio, visto che ci sono le vacanze, montagna o mare per te, per Fabrizio Macchi? Ma entrambe, diciamo che da quando faccio ciclismo, e sicuramente devo fare per forza le vacanze estive al mare, perché la mia stagione finisce a settembre-ottobre e in vacanza si va a novembre. E quindi da un certo punto di vista un po' più rilassante, insomma. Di freddo in bicicletta ne prendo tanto d'inverno, quindi un po' di caldo serve. Tu dicevi, a parte il ciclismo, di cui sei campione, ma hai vinto la maratona di New York 3 volte, hai fatto anche salto in alto e salto in lungo, se non mi sbaglio, ma tutte queste cose tu le hai fatte con, a parte il ciclismo, dove non hai la protesi, la gamba sinistra, ma in queste cose l'hai usata oppure no? No, non ho mai avuto una protesi fino a 2 settimane fa, e insomma, la nascita di Thomas, il fatto che non lo posso portare in giro in un modo comodo, la spinta dei miei compagni di squadra, Fabio Triboli e il mio commissario tecnico Mario Valentini, e soprattutto l'amicizia con Alessandro Zanardi, che mi ha spinto a portare la protesi, da una 15 giorni anch'io posseggo una protesi, e dopo 25 anni rivedermi allo specchio con 2 gambe è stata una sensazione un po' strana. Ti fa un po' strano questa cosa qua, ma è vero che tuo figlio, essendo cresciuto con te, insomma, quei 2 anni è qualcosa che ha, come tutti i bambini che vedono le cose come delle cose naturali, come giusto sarebbe, non ti fa domande su questo, o ti trova strano con la protesi magari? Tu sai un sacco di cose. Indago. La trova molto strana, nel senso che per lui suo papà ha una gamba ed è normale così. E nel momento in cui mi ha visto con 2 gambe la voleva picchiare e buttare fuori dalla finestra. La cosa, insomma, mi ha fatto anche piacere, perché lui mi vede così e ti vuole così me, come sei. A questo punto di vista ha una marcia in più rispetto agli altri bambini o altre persone che magari vedono la disabilità con un modo, come posso dire, un po' da chiudere gli occhi, un po' un po' inquietante forse. Lui invece, per lui il suo papà è così, come lavoro va in bicicletta ed è un campione. Questa cosa mi fa molto piacere. Tu fai ancora il fisioterapista o non hai più tempo? No, non lo faccio più dal 2004 per impegni che hai, per problemi di impegno, esattamente. Poi è inutile non citare, ovviamente, quando si parla di Fabrizio Macchi, campione di ciclismo, non so, Lance Armstrong, anche grande campione americano, che anche lui è risalito dall'inferno di una malattia, di un tumore, no? Eppure poi è stato... Sì. È riuscito a vincere il Tour de France, se non sbaglio, per 7 anni di fila, una cosa pazzesca. Quindi è campione del mondo, 7 Tour de France, adesso è ritornato a correre con la voglia comunque di aiutare la ricerca contro il cancro, ed è, credo sia una motivazione molto molto importante, gli darà tantissima energia, quindi adesso è in convalescenza, insomma, le auguro tutto il bene possibile. Vi incontrate qualche volta? Siamo contratti nel 2005, che abbiamo fatto un documentario insieme per la ricerca contro il cancro, e comunque ogni tanto ci si sente, ma comunque spero di rivederlo al Giro d'Italia quest'anno. Sì, una qualità che cerchi nelle persone intorno a te? La qualità che cerco? Sì, che ti piace trovare, insomma, in chi ti è vicino, in chi vuoi vicino a te. Ma diciamo le persone oneste, che hanno voglia di vivere e soprattutto hanno voglia di sorridere. Prima dicevi che ovviamente l'aver superato una malattia come la tua ti fa vedere la vita con altri occhi. Ti dà per caso anche un po' di senso di invulnerabilità questa cosa? O... Magari nel primo periodo sì, fino a quando c'è stato come posso dire, la malattia e la morte di mio papà. In quel momento ho capito che comunque tutte le persone hanno dei poteri estremamente limitati, e quindi da quel momento in poi non è più successa questo tipo di cose. Tu mi pare di aver capito che cucini volentieri con tua moglie, fra le cose che ho, o no? Mi piace, sì. Mi piace cucinare. Quando siamo a casa cuciniamo un po' per uno, insomma. Che fate di buono? Che fai? Qual è la tua specialità? Specialità di Fabrizio Macchi in cucina? Ma mi piace cucinare i primi e il pesce alla griglia, anche se è una cosa molto semplice da cucinare, però insomma mi piace. Poi ti piace naturalmente mangiarla. E quanto è importante per te l'amore nella vita? Quanto hai capito o pensi che possa essere importante per andare avanti? Ma credo il 110%. Che detto da un uomo è una cosa grande, sai, è difficile, di solito sono le donne, no, che danno grande importanza all'amore, quindi è bello detto da te questa cosa. Ed è l'amore di tua moglie Patrizia, o intendi l'amore in genere, l'amore delle persone che ti sono vicine? Ma soprattutto quello di mia moglie Patrizia e di mio figlio Thomas, e poi l'amore in genere, diciamo che comunque è sempre importante essere attorniato da questo sentimento. ma soprattutto quello della tua famiglia. Questo è veramente una cosa, se tu la riesci a sentire, la riesci a trasformare, è un'energia incredibile. C'è qualcosa che ti abbatte in modo particolare nella tua vita privata, oppure quando pensi così, non dico ai massimi sistemi, ma alle cose che ci circondano, la vita di tutti i giorni? La cosa che mi rattrista di più è che comunque purtroppo hai un impatto abbastanza quotidiano all'ipocrisia delle persone. Questa cosa è una cosa che scatena in me una rabbia incredibile. Dici ipocrisia in genere o rispetto, per esempio, alla tua condizione, che ai più può sembrare un po' in genere, tra parentesi, anche quella nei confronti della disabilità? Senti, tu dicevi, ne sono felicissima di questo, e poi è oggettivo che sei stato comunque, nonostante questa tragedia che ti ha colpito da adolescente, sei stato fortunato, hai trovato l'amore, sei diventato un grande campione, puoi dire di avere un po' di serenità, insomma, a questo punto, Fabrizio? Assolutamente sì, se avessi la bacchetta magica per tornare indietro, l'unica cosa che farei cambiare è la strada del motore di mio papà. Detto questo, per il resto io la rifarei totalmente così. Splendido, Fabrizio Macchi. E allora, in chiusura, però, questa che ti faccio sentire è la lampada di Aladino. E se tu hai un desiderio, comunque, al di là delle cose belle che dici, della fortuna che ritieni di aver avuto, che desiderio esprimeresti ancora, Fabrizio Macchi? Quanti posso farne? Due? Due, puoi farne due, sì. Facciamo questa eccezione. Uno è abbastanza classico, da tanta salute alla mia famiglia. La seconda, una medaglia d'oro olimpica. E a Londra 2012 ti aspettiamo, infallibile, quindi, Va bene? Va bene. Grazie, Fabrizio Macchi. Auguro a tutti voi una buona Pasqua. Grazie a te. Ciao, Fabrizio.